English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa settimana incontriamo uno scrittore inglese, Lawrence Osborne, scrittore, giornalista, viaggiatore. Ha vissuto in Francia, Italia, Marocco, Stati Uniti, Messico e Thailandia. È diventato famoso nel nostro paese per Il turista nudo, ma recentemente ha presentato il suo ultimo libro, Bangkok. Un libro in cui documentario e finzione sono fittamente intrecciati. Un libro che racconta un'umanità in fuga, una città decadente e tentacolare. Del libro Lawrence Osborne ha parlato con la nostra Alessandra Tedesco. Everything is, I mean, I didn't set out to invent things. I wrote it in a novelistic way, of course, but that's just a technique. It's not, you know, it's a technique that was appropriate on a level of emotion, but I didn't want any fantasies or inventions, and so, you know. And I think the book is just very normal. It seems fantastical because it's Bangkok, but actually it's very prosaic. It's very straightforward. Allora, Lawrence Osborne ha spiegato un po' come è nato questo Bangkok. Lo abbiamo detto, tra documentario e finzione, però lui spiega appunto come si dipana il racconto. Sì, è interessante anche sentire l'accento, perché è inglese, però evidentemente tutti questi posti dove ha vissuto lo hanno un po' neutralizzato questo accento. Sembrerebbe quasi straniero, parla un inglese perfetto ma con un accento molto strano. Naturalmente anche lui dice I mean, e dopo questo I mean dice I didn't set out to invent, quindi to set out to è uno di quei phrasal verbs che vuol dire partire con un'idea, cioè non sono partito con l'idea di inventare una storia che fosse proprio di fantasia totale. I wrote it in a novelistic way. È vero, però questa storia l'ho scritta in modo romanzesco. Confessa, è solo una tecnica, è un modo di fare. Quindi la considero una tecnica letteraria, no? Quindi a technique, that's just a technique, dice, a technique that was appropriato, che si può dire di qualsiasi cosa, un comportamento appropriato di qualcuno, non so, a tavola con la regina, piuttosto che appunto la tecnica appropriata per raccontare questa storia a metà tra l'invenzione e la presa diretta di quello che lui vedeva a Bangkok. Sempre con un po' di understatement britannico, anche se è un cittadino del mondo, perché in un certo senso ridimensiona quello che è il contenuto e lo stile del libro. Sì, perché questo libro insomma è stato definito in tanti modi e lui si schernisce, dice I think the book is very normal, it seems fantastical, sembra fantastico, naturalmente non fantastic ma fantastical, cioè di fantasia, sembra un prodotto di fantasia, ma soltanto because it's Bangkok, perché è ambientato a Bangkok, che è una sua opinione personale, perché insomma non tutti abbiamo questa fascinazione che evidentemente lui ha per questa città thailandese. Tra poco ci spiegherà anche perché è così affascinato da Bangkok, ma per concludere con questo estratto, lui utilizza un false friend che troviamo spessissimo, questo actually che mille volte già abbiamo detto significa qualcosa che non ha il senso che potremmo immaginarci in italiano. Quindi è in realtà, ma in realtà is prosaic. Ecco, questo prosaic è un aggettivo che piace molto agli inglesi, e non dobbiamo tradurlo prosaico, ma semplicemente è vero, è reale, quindi continua a dire che il suo libro è, per quanto ambientato in una città fantastica, che sembra quasi di fantasia, in realtà è molto prosaic, molto reale. È straightforward, molto chiaro, molto senza equivoci, poi insomma non è proprio così, ma è chiaro che allo scrittore il suo libro, la sua creatura appare in un modo diverso. Dicevamo appunto che secondo lui questo libro è molto ancorato alla realtà e quello che lo rende in un certo senso fantastico, ricco di fantasia, è proprio la presenza dell'ambientazione della città di Bangkok. Ci chiedevamo cosa lo ha attratto della città di Bangkok. Ecco la sua spiegazione. Honestly, I think it's the belief in the spirit world, belief in the supernatural. I think that's the most striking difference. It made me think, Thais always make me think of my grandparents. My grandparents also believed in the spirit world in a very ancient way, in a way that I don't. But Thais do, and it really changes everything. It changes the way they look at people, it changes their idea of relationships, changes their idea of everything. And it's not distinct, it's a difficult thing to, but I think it's, you know, it's a dimension to life that I like, I'm very attracted to it. I don't believe in it, but I'm attracted to it. ecco qua la sua attrazione per Bangkok e per alcuni aspetti in particolare. Honestly, lui vuole essere subito sincero e ci spiega perché. E dice che forse l'aspetto più interessante è questo belief in the spirit world, in the supernatural. Supernatural, oltre a essere una canzone, è naturalmente ciò che è sovrannaturale, noi quindi il soprannaturale, quindi tutto, anche, o se vogliamo il paranormale, insomma il mondo degli spiriti. E tutto questo è una cosa che a noi non appartiene più, quindi c'è una sorta di grande differenza rispetto al nostro mondo attuale. E però lui ricorda it made me think, it makes him think of his grandparents, che i suoi nonni, che avevano ancora questa forte credenza negli spiriti, quindi non tanto semplici credenze religiose per chi crede nell'aldilà, ma proprio negli spiriti. E i Thais, che sono naturalmente i thailandesi, sappiamo quanti Thai restaurant abbiamo visto a Londra, e loro dice i Thais mi ricordano i miei grandparents, i miei nonni. Che credevano in the spirit world, cioè nel mondo, appunto, dicevamo, degli spiriti, un mondo che ha a che fare con una spiritualità in un certo senso immanente, in a very ancient way, cioè in un modo che non ci appartiene più. Sì, se vogliamo naturalmente un po' pagano, nel senso che appunto non è una cosa religiosa, all'Inghilterra sappiamo una grandissima tradizione di sedute spiritiche, e questo appunto in a way that I don't, lui vuole precisare, io non sono uno che crede negli spiriti, però Thais do, i thailandesi lo fanno. E non solo, tutto questo però influenza tutta la loro visione della vita. E quello che li rende particolari è che appunto questo credere al spirit world in that way changes everything, changes the way they relate to people, e dice it's not distinct. È chiaro che se non l'hai vissuto, se non lo capisci, se non l'hai provato tu stesso, non sai dire bene perché, però vai e ti accorgi che it changes everything, there everything is different. Dà proprio una diversa dimensione alla vita. Sì. E lui dice I don't believe in it, lo vuole ripetere, vuole essere molto chiaro, but I am attracted to it, sono attratto da questo set di credenze, sono affascinato anche probabilmente. E lo abbiamo sentito dal tono di voce di Lawrence Osborne, abbiamo capito perché è così attratto dalla città di Bangkok, perché questa città ha trasformato il suo libro così reale in un libro quasi poetico, quasi fantastico. Ma parlando della città di Bangkok, visto che lui è proprio un viaggiatore, quindi la conosce bene come conosce molte altre zone del mondo, qual è secondo Lawrence Osborne il futuro di Bangkok? What future does Bangkok have? Yeah. It's a present future. I think it's going to be one of the wealthiest cities in the world for that very reason, because the economy of the future will be a service economy. Probably, they're extremely talented for that. They understand exactly what service is. I'm not talking about sex. I'm talking about what you get in a hotel. No. I mean, the level of refinement and professionalism they bring to that is unbelievable. You know. So they understand that about capitalism, they understand it, and they're very quick to adapt to it. The future of cities, I don't know, I mean, I think cities stay the same, actually. They change very slowly. And if you know, tourism is the world's largest industry right now, and it's projected to be double in maybe 20 years' time. So these cities that live on tourism will probably be the most successful. Eccola qui l'ultima domanda della nostra Alessandra Tedesco a Lawrence Osborne. Sentivamo un'altra voce insieme allo scrittore, era ovviamente quella dell'interprete. Infatti Osborne risponde subito con una domanda. Mi ha chiesto qual è il futuro di Bangkok. Quindi vediamo subito la struttura della domanda, siccome inizia con una delle quattro parole con la doppia V, quindi what future does Bangkok have? Quindi non what future Bangkok has, come facciamo noi in italiano, ma does have, quindi qual è il futuro di Bangkok? E lui dice, secondo me, it's going to be one of the wealthiest cities in the world, sarà una delle città più ricche del mondo addirittura. Tra l'altro questo let's say è ancora un po' quasi un I mean, let's say, sì. Diciamo, vediamo un po' cosa possiamo dire. It's going to be one of the wealthiest. Quindi una delle più ricche for that very reason. Qui è molto divertente perché se lo traducessimo letteralmente dovremmo dire per quella molto ragione, che naturalmente in italiano non diciamo. Lui avrebbe potuto dire exactly for that reason, però gli inglesi hanno questa, l'inglese ha questa possibilità di dire for that very reason. E comunque il senso è l'economia dei servizi, che Bangkok è già oggi una città che offre tantissimi servizi. Lui fa anche proprio un discorso in generale, l'economia del futuro è l'economia dei servizi. Quindi economy of the future is a service economy, questo sappiamo, molti economisti ce lo dicono, poi in realtà ci hanno anche detto che i paesi che si sono salvati dalla crisi erano quelli che avevano molto manifatturiero, quindi boh, chissà chi ha ragione. Comunque, secondo Osborne, i Thais sono extremely talented for that, cioè hanno molto talento per questa economia dei servizi. E lui dice, a scanso di equivoci, visto che spesso associamo la Thailandia e Bangkok al turismo sessuale, and I'm not talking about sex, e non è soltanto questione, quello c'è per carità, di appunto turismo sessuale o di servizi sessuali, cioè molto, ma molto di più. Ovviamente ha dovuto chiarire questo aspetto, ma lui parla proprio di una sorta di qualità nell'accoglienza che riguarda altri aspetti. Per esempio, dice, negli alberghi c'è un level of refinement, cioè un livello di raffinatezza proprio del servizio, e in questo i thailandesi, che non sono certo, la Thailandia non è certo la culla del capitalismo, però they understand capitalism e sono stati very quick to adapt to it, e si sono adattati molto velocemente alle regole del capitalismo, che in questo caso è, per esempio, appunto, chi ha il servizio migliore attrae più clienti, e quindi nel turismo più che mai. Già diceva, they understand what service is, loro capiscono, hanno la coscienza di quello che è il servizio, e in generale lui dice che però è difficile capire qual è il futuro delle città, insomma, un po' è dubbioso sulla sua capacità di prevedere proprio in generale il futuro di una città, nonostante abbia viaggiato molto. Sì, soprattutto se sono metropoli, dice, usually they stay the same, cioè sono ormai talmente mastodontiche che alla fine appunto magari cambia quello che si fa all'interno della metropoli, però la città resta la stessa. Però essendo il turismo già oggi the largest industry, anche se è un'industria di servizi, del mondo, projected to be double entro pochi anni, quindi che si pensa raddoppierà entro pochi anni, beh, Bangkok è lì che non aspetta altro che i turisti arrivino. E quindi conclude ancora una volta, cities that live on tourism, perlomeno secondo lui le città che vivono sul turismo, will be the most successful. Insomma. Most successful, quindi sappiamo quando un aggettivo è molto lungo come successful, non gli possiamo mettere il suffisso, dobbiamo mettergli il most davanti. E salutiamo Lawrence Osborne, abbiamo solo il tempo per i ringraziamenti. Ringraziamo Alessandra Tedesco che ci ha regalato questa intervista, Pietro Lacorte in regia, vi ricordiamo English 24 in edicola da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'auguro di una buona serata.